18.03 minuti che scoccano in questo momento, mercoledì magico di Radio Città Fujiko, un mese dalla primavera 2024, 21 febbraio si comincia quindi con una playlist letteraria corredata dalla playlist musicale portate da Silvia e Stefano, quindi studio già al completo. Buongiorno Silvia, benvenuta. Buongiorno Willy. Iniziamo e tutti, a tutte. Sì, non dimentichiamo le nostre ascoltatrici e i nostri ascoltatori che tra l'altro sono protagonisti anche, come dico sempre, per portare nuove pubblicazioni nelle loro biblioteche nel settore libri vinti da Radio Città Fujiko. Aspettiamo risposte anche da nuove ascoltatrici e nuovi ascoltatori, abbracciando chi fedelmente ci segue. Intanto, per partire, ricordo e ribadisco il 333-180-9494. Non ho citato nei magazine volutamente la prima pagina di Alias, inserto del manifesto nell'edizione domenicale, con l'articolo di recensione portato da Silvia Albertazzi, in quanto il lavoro che presenterà è nel voltiamo pagina, per cui insomma non ho voluto svelare, anche se già abbiamo svelato per i più attenti, sapranno che è una scrittrice che seguiamo, è una pubblicazione in Audi, però a questo punto anch'io, che non ho letto l'ultimo lavoro di Elizabeth Strout, sono curioso di saperne di più. A te la parola, Silvia. Sì, parliamo di lucida la lucida follia che abbiamo. Stamattina sono un po' fuori onda. Dunque, parliamo di Lucy davanti al mare di Elizabeth Strout, editore Einaudi, come al solito. Si tratta della quarta puntata, possiamo dire così, del quarto volume della saga di Lucy Barton, che era iniziata appunto con Mi chiamo Lucy Barton qualche meno di 10 anni fa, e che la nostra Elizabeth Strout sta portando avanti con molto gusto, diciamo. Ecco, questa volta troviamo Lucy Barton alle prese con la pandemia. È interessante notare come questo libro negli Stati Uniti sia uscito soltanto un anno dopo il precedente. Il precedente era O. William, nel quale il dedicato a me. Dedicato a te, appunto. Nel quale il protagonista era appunto il primo marito di Lucy, che dal quale lei aveva divorziato per via dei troppi tradimenti. Ah, noi William siamo dei donnaioli. Non è vero. E questo invece noi sappiamo, vabbè. Stai riprendendo lucidità, vedo. Sì. Procediamo. E invece questo William adesso mi hai fatto perdere il filo, va bene, Lucy nel frattempo si era risposata con un suonatore di un'orchestra sinfonica, che però purtroppo l'aveva lasciata vedova. Quindi avevamo nel romanzo precedente Lucy vedova e inconsolabile, direi, e William che anche lui non era vedovo, ma era alle prese con il suo terzo divorzio, mi pare, e quindi aveva imparato, per uno strano, in maniera piuttosto rocambolesca, aveva imparato di avere una sorellastra che non aveva mai conosciuto, e quindi chiedeva a Lucy di accompagnarlo nel Maine a conoscere questa sorellastra. Lucy accetta, e però quando si trovano davanti a casa di questa persona, William non se la sente di farsi avanti per primo, manda avanti Lucy, la quale però ritorna indietro dicendo: guarda, non ti vuole conoscere. Ecco, così vi siete già messi d'accordo, tu non te la senti, lei non vuole vederti, pace fatta. E il libro più o meno concludeva qui. Il romanzo attuale, Lucy davanti al mare, in qualche modo riprende dove aveva lasciato il precedente. Probabilmente lei l'ha scritto molto in fretta, perché la pandemia le ha suggerito appunto dei nuovi sviluppi per i casi di Lucy e di William. Però per sicurezza, diciamo, all'inizio, nella prima pagina del romanzo, Strout dà il riassunto delle puntate precedenti, una cosa che a me ha infastidito moltissimo, perché io trovo che un romanzo... Beh, come darti torto, in effetti. Lo fa brevemente, guarda, mezza paginetta. Però apro una parentesi, i romanzi della Strout su Lucy, per chi non li ha letti, sono tutti scritti in maniera molto, soprattutto gli ultimi tre, diciamo, sono tutti scritti in maniera molto molto colloquiale, cioè a parte il secondo, che per me è il più bello, infatti, tutti gli altri sono scritti, è Lucy che racconta, e racconta rivolgendosi molto spesso anche ai lettori, quindi in maniera molto colloquiale, molto anche così proprio terra terra, se vogliamo, sì, alle volte. Per me, e non è una brutta parola quella che sto dicendo, anzi tutt'altro, per come la intendiamo noi, lei è una scrittrice pop. Sì, per me è una scrittrice, proprio per questa caratteristica che condivido, questa capacità dialogica che ha con il lettore. Per sì, cui, è una scrittrice, anche io uso questa parola non in senso esatto. negativo, è una scrittrice popolare. Sì. Una scrittrice che senza dubbio si legge molto piacevolmente. In questo caso cosa fa? All'inizio proprio vi dice, ok, vi ricordate dove eravamo rimasti? Più o meno così, insomma. Ripeto, a me però questo ha infastidito. Sì, così è un po' troppo. Perché io, adesso non è proprio in questi termini, ma quasi. Mi ha infastidito perché io credo che un romanzo dovrebbe stare in piedi da solo, se vogliamo. Cioè, il libro inizia in maniera molto ambigua. Perché dice, io non mi ero anch'io come molti altri non l'ho vista arrivare. William però è uno scienziato e lui sì che l'ha vista arrivare, l'ha vista prima di me, è questo che intendo. E questo è un bel inizio, perché tu non sai chi è questa cosa o persona che William ha vista arrivare e lei come tanti non se n'è accorta o non ci ha fatto caso. Poi dopo però comincia a spiegare, William è il mio primo marito, siamo sì. state, era successo questo e questo. Quello la deve lasciarlo fare a te, non a lei. Sì, dovrebbe riuscire a fartelo capire, se non hai letto il romanzo precedente, con quello che succede dopo. Sì. Non farti il riassuntino, va bene, chiusa parentesi. Chi è che Lucy non aveva visto arrivare e William, che è uno scienziato, sì? La pandemia. La pandemia che William, essendo un parassitologo, ha capito subito che si era di fronte a qualcosa di grosso. E allora cosa fa? Va da lui, oramai lui appunto è divorziato, è solo, Lucy è vedova, eccetera, va da Lucy e le dice, senti, io ho affittato una casa nel Maine, lontano dalla pazza folla di New York, dai contagi di New York, vieni con me e ti porto lontano da qui, dove è più difficile che arrivi il contagio. Lei chiaramente non è poi che sia così contenta. Prima di tutto non ci crede come tanti che sarà una cosa devastante, una pandemia devastante. In secondo luogo ha di tutto a voglia, meno che di starsene, non si sa quanto tempo, con il suo ex marito. Certo. D'altra parte però lui, diciamo, la trascina quasi. E tutta la storia poi ha luogo in questo paesino del Maine che, guarda caso, si chiama Crosby. Non so se il paesino di Crosby nel Maine ti ricorda qualcosa. Beh, Crosby stile Nash. No, ok. I lettori di Elizabeth Strout, certo, lo conoscono sì. bene, perché è un paesino fittizio che non esiste. Ma è quello dove abita Olive Kitteridge. Olive Kitteridge, che è il personaggio più famoso, prima di Lucy, diciamo, di Elizabeth Strout, quella che ha dato la fama a Elizabeth Strout. Quindi abbiamo tutto un gioco molto autoreferenziale all'interno del romanzo. Lucy che va con William nel Maine e chi è il suo padrone di casa? Il suo padrone di casa, quello che affitta questa bella casa a Lucy sul mare, a Lucy e William, è un tal Bob Burgess, che è un personaggio minore di un altro romanzo di Elizabeth Strout, I ragazzi insieme. Burgess. Ah, capolavoro assoluto. Il libro è questo con cui ho conosciuto Elizabeth Strout. Poi sono arrivato a Olive Kitteridge. Kitteridge, esatto. Tutte e due pubblicazioni Fassi. Ecco, basta. Sì, che secondo me sono anche le sue cose migliori. E quindi c'è tutto questo gioco di rimandi al proprio lavoro, per cui diciamo che la Strout è una scrittrice che ti fidelizza a un certo punto. Sì, è vero. per questa capacità che abbiamo citato all'inizio. Per me, il primo libro della Stroud che ho letto, che è I ragazzi Burgess, per me è di una bellezza, leggetelo subito. E al punto, questo Bob è un personaggio, infatti si chiama Bob Burgess, è un personaggio minore di quel romanzo, qui invece è un bel personaggio di rilievo, perché in qualche modo diventa l'amico, il confidente di Lucy in questa sua, direi quasi prigionia forzata davanti al mare. Allora, inizialmente Lucy è insopportabile, è triste, non ha ancora elaborato il lutto per la morte del marito, anche se oramai è passato un anno, è insofferente di tutto quello che fa William, non le va bene niente. È anche fastidiosa anche per noi lettori, perché qualsiasi cosa, da quello che mangia a quello che vede, lei è insopportabile. Convivenza difficilissima. Sì, sì, ma anche con se stessa proprio. E poi inizia appunto a fare queste lunghe passeggiate in riva al mare con questo Bob Burgess, e con lui invece riesce in qualche modo ad aprirsi e almeno ad avere un minimo di comunicazione. Poco alla volta capisce qual è la situazione, come sia tragica la situazione, soprattutto a New York, da cui lei è partita, e anche nel resto del mondo, e quindi comincia ad essere preoccupata per le figlie che oramai sono grandi, tutte e due sposate. Però lei è preoccupata sia perché possano essere contagiate, sia perché hanno dei problemi, soprattutto una ha dei problemi di ordine coniugale, ai quali lei chiaramente non può far niente. Uno, perché è lontana, due, perché sono al di fuori, sono affari loro. E così via. Quindi si trova a vedere queste cose da lontano e a soffrire perché è lontana. Ma soprattutto quello, e questa è la parte migliore del romanzo, direi, quello che in cui Stroud riesce meglio, cioè il fatto che Lucy, che per chi non lo ricordasse o non avesse mai letto i romanzi di Stroud su Lucy, è una scrittrice di grande successo, di fama, che si è sposata molto bene con questo rampollo dell'alta borghesia newyorkese, per cui sta bene economicamente, ma in origine lei viene dalla miseria più nera, viene da una situazione di indigenza assoluta in un paese sperduto, mi sembra dell'Illinois, adesso dell'Ohio forse, L'Ohio sì, di un paese sperduto, dove oltretutto da una famiglia ignorante, dove è anche stata maltrattata, e quindi ha sempre sentito molto forte nella sua vita il discorso della lotta di classe, del rapporto fra le classi e della difficoltà di superare le barriere di classe. Bene, Lucy in questo momento si trova a rendersi conto di essere una privilegiata. Sì. Per la prima volta in vita sua se ne accorge proprio, lo tocca con mano. Lei è una privilegiata che è potuta fuggire da New York, intanto in una condizione agiata, in una bella casa davanti al mare, un paesaggio magnifico, e non venire toccata da quello che sta succedendo nel resto del mondo, o quasi. E chiaramente si trova di fronte a un dilemma. Questa consapevolezza porta degli interrogativi. Per esempio, lei si trova a diventare oggetto di ostracismo, perché gli abitanti di Crosby non vedono di buon occhio i cittadini. La cittadina che è arrivata lì. E quindi, non so, prendono di mira la sua automobile, le urlano contro. Ah, in maniera concreta proprio, non solo come malelingue. No, proprio fisicamente. E quando lei va a casa e dice a William: sono andata a fare la spesa mentre facevo la fila, perché ci sono queste file lunghissime, no? Mi hanno urlato contro e mi hanno detto: sporca cittadina, sì, torna da dove sei venuta, eccetera. Offese. E lei è molto scossa per questo. William a un certo punto la guarda e poi dice: senti, in questo momento ci sono delle cose più importanti. Praticamente la mette a tacere. Non è una bella risposta. Più o meno, insomma, certo. La mette a tacere, dice: sì, ma sai, aveva già rotto tanto. Ah, ok, era arrivato chi là. Credo anche che noi siamo molto colloquiali in questa presentazione. E va bene così. Intanto ti posso chiedere se lo metti in palio questo libro. Dunque, non metto in palio il libro, ma metto in palio le bozze. Che sono, giusto. Sì, sono le bozze bello. Definitive e sono esattamente uguali al libro. Ci sono le note? Beh, sì, qualche nota bene, c'è. Sono quelle sono che ho, aggiunto. Sono quelle che ho preso per fare la sai recensione. Il valore che avrà poi avere le bozze autografe. Da Silvia Albertazzi. Ok, io direi di partire col primo stacco musicale perché non siamo mica ancora arrivati a termine da questo viaggio insieme a Elizabeth Strout per il suo personaggio Lucy, che si ritrova in maniera interrogativa a fare i conti con la sua vita vicino al suo ex marito in un panorama bellissimo ma allo stesso tempo inquietante. Mi pare interessante anche dal punto di vista willato, mi sembra. Penso di sì, penso che ti piacerebbe, sì. Sì. Quindi hai fatto insieme a Stefano una colonna sonora dove i titoli Lucy vanno per la maggiore. La colonna sonora è stata dura da mettere assieme, alla fine l'ho messa assieme quasi tutta io, devo dire, quindi non sarà poi magari di tuo gusto. No. Ed è stata semplicemente fatta prendendo Lucy e mare, quindi avremo due canzoni su Lucy e due canzoni sul mare. La prima è di un autore, tra l'altro, che io conosco poco ma che mi ha sempre affascinato, che è Mimmolo Casciulli. Sì, io l'ho scoperto per caso leggendo i titoli nei dischi, dico: toh, una canzone chiamata Lucy, portiamola. Subito portiamola. Lucy se n'è andata via come un'onda senza riva, come una farfalla bianca senza un fiore. E non è l'amore che la porta lontano, e nemmeno il richiamo di una chimera. Leggo le edizioni Parco della Musica, curioso, prendo il lavoro di Mimmolo Casciulli e vedo nei featuring, attenzione, Joy Baron, Mark Ribot, chitarrista di cui abbiamo parlato tanto, Stefano Di Battista e Gabriele Mirabassi, cioè come una farfalla bianca senza un fiore. Parco della Musica, che come Egea è una delle case editrici discografiche più importanti per il jazz e anche per la musica d'autore, quindi diciamo che ritrovare un Mimmolo Casciulli in questa veste ne porta una scrittura da parte sua assolutamente molto molto suggestiva, e infatti ho apprezzato molto questo lavoro. E il disco, caro Stefano, potrebbe venire a casa mia, ma questo è mio, il disco non è di Stefano, è mio. Okay. Scusa Silvia, però tramite Stefano magari ne avrò una copia, ecco, senza dubbio. Questo è oro, per il venerdì in musica italiana, questo è oro. Intanto procediamo. Poi guarda come bello, le edizioni Parco della Musica sono tutti tempi, secondo me. E per quanto riguarda invece la nostra Elisabeth Strout, da quello che è stato riportato nella prima parte di presentazione, è un finale aperto. Allora, non ti posso dire come finisce. No. Perché, a differenza del precedente, ha un finale, in fin dei conti. Diciamo che è un finale molto positivo. Lei si riconcilia con se stessa, questo lo possiamo dire. C'è anche da dire che una delle prime cose positive che succedono nel romanzo è che la William le dice che poi alla fine la sorella ha deciso di volerlo, la sorellastra ha deciso di volerlo incontrare. Okay. E quindi lui ha scelto un po' di andare nel Maine, anche perché la sorellastra vive nel Maine. Sì, certo. Quindi ci saranno questi incontri tra lui e la sorella. E insomma, c'è tutta una serie di situazioni che vengono a maturazione e che portano a un finale in cui Elizabeth dice, vedo se riesco a trovare le ultime parole. Tu l'hai promosso comunque. Sì, direi proprio di sì. E ecco, senti, il finale è molto bello, diciamo. Ho sentito dentro una scossa leggera di un presentimento che riguardava me e il mondo intero. E mi sono aggrappata a quell'uomo come se fosse l'ultimo essere umano rimasto sulla terra, triste e bellissima com'è. Ah, la poesia di Elisabeth Strout è qualcosa che apre il cuore e nello stesso tempo ha dei contenuti che portano a riflettere. Lei per me nel contemporaneo è uno dei giganti per la letteratura, a me piace tantissimo. Sì, anche a me il libro è piaciuto molto, ecco, io però proprio queste strizzatine d'occhio al lettore mi danno fastidio. Ok, piccola critica. Questo modo che ha di Elizabeth Strout attraverso Lucy di dire: allora adesso. Come state? Tutto bene, ragazzi? Più o meno, sì. Adesso vi racconto, adesso ti racconto vi racconto un fatto, perché non sappiamo poi se quello you inglese corrisponde a V o a T, appunto. Adesso ti racconto questo. Questo è un fatto che mi è capitato. Che bisogno c'è di dire questo è un fatto che mi è capitato? Forse non so. Raccontalo e basta. Per alleggerire la condizione di scrittura. Quindi, giunti a questo punto, siamo arrivati al momento del quiz per avere le bozze del lavoro di Elisabeth Strout, Lucy davanti al mare, da Einaudi, autografate da Silvia Albertazzi, intenta nel suo lavoro di recensione anche dalla prima pagina di Alias Edizione Domenicale del Manifesto. E noi a questo punto vogliamo sapere. Sì, dunque il brano che sentiremo tra poco è un brano famosissimo, Lucy in the Sky with Diamonds, non poteva essere altrimenti, parlando di Lucy, che come tutti sappiamo è un brano dei Beatles, anzi per la precisione di John Lennon, ma l'ho scelto in un'altra versione, cioè per non annoiare sempre con John Lennon. Ne hanno fatte mille versioni. Ecco, cioè, questa è quella di Amy Mann, cantautrice folk americana. Ecco, io la vulgata, cioè la leggenda metropolitana voleva che Lucy in the Sky with Diamonds fosse l'acronimo, se prendiamo l'acronimo per LSD. Okay. Non è vero. Io voglio sapere che cosa ha ispirato invece, quale libro ha ispirato Lucy in the Sky with Diamonds di John Lennon. Quale libro ha ispirato, sì, o quale libro ha preso ispirazione? No, poi, lui da quale libro si è ispirato? Inglese si è ispirato. Ok, per la scrittura di Lucy in the Sky with Diamonds. Da quale libro è stata presa poi l'ispirazione per portare questa canzone bellissima, tra l'altro, di John Lennon? Al 333-180-9494. Vi aspettiamo. And marmalade skies. Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope eyes. Cellophane flowers of yellow and green, towering over your head. Look for she's gone. Trasparenti onde, dove il silenzio non ha più un richiamo e tutto si confonde. Dalle lagune grigio e nere, dal faticare senza riposo, dalla sete alla fame, allo spavento, al più segreto tormento. Avemmo padri, avemmo madri, fratelli, amici e conoscenti, ed imparammo a dare un nome nuovo ai nostri sentimenti. E così un giorno a camminare su questa terra sotto a un sole avaro, per un amore che sembrava dolce si è scoperto amaro. Oh, qui ne abbiamo uno buono, questo sì, questo è buono davvero, Sergio Cammariere, dalla pace del mare lontano. Cosa dici? Ho portato musica che magari non incontra. No, poi... che non incontra il tuo gusto, pensato. Lato e tutti i tempi, cammariere. E in mezzo al mare c'è un punto lontano, così lontano dalle case e dal porto. Sto rubando un po' di dischi alla famiglia Calanchi Albertazzi, mi è arrivato adesso il lavoro dei Talking Heads, Fiero of Music, e grazie. Poi non si distingue più. La linea d'ombra confonde. Visto dal vivo Sergio Cammariere, Fabrizio Bosso alla tromba, insomma, veramente un grandissimo per la nostra playlist. Mentre invece dichiaro già il vincitore, che tra l'altro Silvia precisava, perché io subito sono partito fuori onda, sì, Alice nel Paese delle Meraviglie. Silvia fa sì, però avrei piacere arrivasse la risposta con la seconda parte. Do buono ovviamente la risposta di Alice nel Paese delle Meraviglie, però nello specifico sarebbe Attraverso lo specchio, che è la seconda parte di Alice nel Paese delle Meraviglie, anche perché sono due volumi separati. Però noi abbiamo deciso, sì, di premiare Alice nel Paese delle Meraviglie, e sono ben lieto di portare il lavoro di Carol in versione quiz, quindi da Lucy Barton, la protagonista di Elizabeth Strout con Lucy sul mare, a Francesco, che addirittura sottolinea, però pare che fosse un disegno della figlia. Del figlio. Perché guarda, non ti diamo 10. Non ha mai avuto figlie femmine. Lennon. È vero, infatti non mi. Che bello sto disco. Senti qua sta boss. Tutti i tempi, veramente lui è commovente. Sì, addirittura arriva questa risposta molto curiosa. Yuri che scrive un libro di Asimov, ma non so quale. No, però grazie per aver giocato con noi. Intanto trovo anche Paola, che ha risposto esattamente, ma è arrivata, come si dice, un po' lunga. Dino dalla Bolognina ha risposto esattamente. Leggiamo altri contributi. Ecco, ciao, Alice nel Paese delle Meraviglie, da Jessica. Anche lei non è esattamente nei primi, ma arriva nel podio del Voltiamo Pagina odierno. Restate sintonizzati, che adesso è il momento del lavoro che voglio portare alla vostra attenzione. Intanto non presento un libro di seconda metà dell'Ottocento, e già questo, no, ho avuto attenzione dalla critica, un'attenzione finalmente che arriva in Italia, in Norvegia, uno scrittore norvegese. Pensate che stavo parlando con appassionate e appassionati di letteratura in polesine, ma la scrittura scandinava, la scrittura scandinava ha delle attinenze, ha delle particolarità, ha delle specificità che la rendono riconoscibile, ad esempio l'attinenza con la natura, con il paesaggio, con una scrittura che è così, diciamo, sfumata, ma nello stesso tempo che ti entra. È un po' come il discorso della nebbia, no? Che ti entra nonostante sia fumoso, ma allo stesso tempo, magari respirandola dentro di te, serve poi per mettere più chiare le cose che ti restano davanti. Sono un po' queste le sensazioni che lo scrittore Tore Rembrandt, con la mia Ingeborg, pensate che il titolo già mi ha attratto, perché pensavo fosse Ingeborg Bachmann, che è questa scrittrice poetessa che a me piace tantissimo. No, non c'entra in questo caso. Ingeborg è questa donna purtroppo scomparsa, lasciando solo, per soffrire di una vedovanza veramente intensa, il marito, che è un uomo solo, è un uomo che si ritira da una vita chiassosa a una vita invece invece che lo riporta tra questi boschi, tra il legno, la resina, tra la lavorazione dei tronchi. I figli sono grandi, lui anziano, protagonista, non ha più direzioni né contorni che non siano quelli del suo massiccio bisogno di realtà che siano immediate. Tutto questo perché si capisce nel lavoro di Tore Renberg, che in Norvegia è uno scrittore molto molto seguito sia dalla critica che dal pubblico, per farsi finalmente in Italia. Beh, lui ha sempre impostato la sua vita in questo modo, dicevo, di una nebbia da respirare, perché lasciando fuori una vista più chiara, prendendo questa inquietudine per elaborare all'interno. È esattamente questa la sensazione che dà il lavoro La mia Ingeborg, e bisogna passarci attraverso questa nebbia per poi elaborarla e trovare le cose più chiare. Il lavoro di Renberg ci porta a questa visione, una visione oltretutto descritta perfettamente per il panorama norvegese, per queste ambientazioni. Beh, quello che resta di un uomo che ha i figli già grandi, che resta da solo, che ha delle compagnie immediate, c'è un suo aiutante che conosce sin da bambino in difficoltà, questo omone cresce rimanendo bambino perché non ha altri contatti, co-protagonista di questo lavoro. Beh, il protagonista invece solo passa nella prima parte del libro a ricordare costantemente una vita in cui la parte emozionale era completamente lasciata, costruita, portata avanti dalla figura di chi non c'è più, La mia Ingeborg. E adesso che non c'è più, ovviamente, cosa resta? Resta il vuoto che, respirato in forma di nebbia, lascia davanti una chiarezza per poter procedere e per coprire questa mancanza. Come? Beh, ovviamente con il ricordo, con la crescita, con il momento di dedizione alle piccole cose e con tutto quello che ci può portare a conoscerci meglio nonostante un'età avanzata. È un libro che a me è piaciuto tantissimo, eh? È un libro che mi ha ricordato come stile, e lo consiglio, un altro lavoro che consiglio fino quasi ad obbligare è Fame di Knut Hamsun, scrittore norvegese. In questo caso sì, siamo nella seconda metà dell'Ottocento, però Fame di Knut Hamsun è assolutamente un classico da leggere. Lui ha delle attinenze con il lavoro di Knut Hamsun nella scrittura della mia Ingeborg, uomo che ha lasciato tutta la parte emotiva, sentimentale, artistica, culturale nelle mani di questa sua compagna di vita, finché purtroppo scompare, resta lui da solo e questa parte per lui resta completamente monca. È il momento di fare i conti con questa mancanza, e i conti passano attraverso Tore Renberg, che ci parla nella prima parte di quello che è stato impostato e nella seconda parte di come viene rielaborato per completarsi. Beh, non è un allegrone, Tore Renberg, ovviamente, come non lo era Knut Hamsun, però indubbiamente è scritto divinamente. Bravo lui, classe 1972, per quanto riguarda le edizioni di Fazi, decisamente libro della settimana. Come ho detto, sono rimasto attratto dal titolo, pensavo ci fossero delle attinenze con Ingeborg Bachmann, no, assolutamente, è la compagna di questo personaggio scomparsa, lasciandolo in una vedovanza, questo protagonista in un panorama di boschi, tronchi, resina, tipicamente norvegese, a fare i conti con questa vita monca, dove la parte emotiva e sentimentale era lasciata completamente alla figura femminile di Ingeborg, da cui riporta il titolo La mia Ingeborg. score. Intanto ho lasciato la musica, ho contribuito anch'io alla musica con Jan Garbarek, saxofonista norvegese, qua con Kate Jarrett. Alla ritmica, bassista e batterista, Palle Danielson e Jon Christiansen, appunto dalla Norvegia. Ho voluto portare le sonorità per ECM a commento della mia Ingeborg. Beh, una bella analisi, una bella domanda, capisco, no? Dice, bisogna completarsi nella coppia, ma quando poi si affida totalmente un aspetto, che sia concreto, che sia emotivo, che sia di qualsiasi origine, completamente guardandolo nella figura della persona che ci sta accanto, tutto ciò, insomma, è una decisione che, se vogliamo, diventa poi anche naturale, o per pigrizia, o per indole, o per percorsi di vita. Però, come denuncia Tore Remberg in questo lavoro, quando poi ci ritroviamo da soli, è veramente un sentirsi totalmente mutilati di una parte fondamentale di noi, cioè in questo caso la parte sentimentale, emotiva, culturale, di sensibilità, artistica, se vogliamo. Lo porterà anche a una sorta di cattiveria, perché il destino ha voluto mutilare la persona del protagonista da una figura così intensa. A oltretutto, aggiungo, per le modalità di lettura, molto bello, adoro i libri scritti in questo modo proprio per le mie scarse capacità di apprendimento. Sono capitoli brevi, quindi questo aiuta molto a fare collegamenti, è molto poetico, ovviamente. Sì, a me è piaciuto tantissimo. Arriva anche il quiz, tra l'altro stiamo ascoltando, come ho detto, Kate Jarrett, per cui intanto che elaboro il quiz lo lascio in sottofondo, poi rientriamo e negli ultimi minuti avrete la possibilità di portare nello scaffale Radio Città Fujiko Tore Remberg, la mia Ingeborg, edizioni Fassi. Contralto Jan Garbarek, al pianoforte Keith Jarrett, non Kate Jarrett, che giustamente, come ha detto Silvia, è un nome femminile, per cui è una grande possibilità, questa correzione che mi viene portata. Non la trovo certo come critica, anzi ringrazio anche il mio amico Andrea che mi corregge, perché non si dice Jill Scott Heron ma è Gil Scott Heron. E confermi, Silvia, da prof di inglese, direi di sì. Non ci avevo fatto caso a quello. Allora, domanda molto semplice. Oddio, bisogna vedere poi che passione avete per le bandiere. A me piacciono tantissimo. Sapete la caratteristica delle bandiere scandinave con questa croce asimmetrica? Ognuna ha con dei colori. La Svezia ovviamente va da sé a dei colori, la Danimarca anche, e per quanto riguarda l'Islanda, anche la Finlandia, potrei andare avanti ad oltranza. Però siamo in Norvegia. La Norvegia ha due colori ben precisi che magari hanno anche qualche attinenza con la nostra città. Quali sono i colori di croce asimmetrica e sfondo nella bandiera norvegese? Lo aspetto al 333-180-9494 e per voi la mia Ingeborg, Tore Remberg, edizione Fazzi. We'll be right back. rossa la croce, blu lo sfondo. Mi correggo, perché attenzione, poi faccio confusione anch'io, eh? È arrivata la risposta ancora più precisa di Paola. Mi dispiace Dino, però sfondo rosso, croce blu bordata di bianco, che sono un po' anche i colori del nostro araldo. Brava Paola. Oh Paola, sei stata hai una passione per la Scandinavia. Ringrazio anche Giuseppe, ringrazio Dino che per avevo momentaneamente illuso, purtroppo diciamo che c'è stata molta più precisione da parte di Paola, per cui Dino non ti arrabbiare, magari ne hai già tanti ancora da leggere, avremo un'altra possibilità qui al Voltiamo Pagina rispondendo al 333-180-9494. I nostri vincitori Francesco e Paola potranno recarsi alla libreria Ubic di via Irne a Bologna, ovviamente, Touché, dice Dino, al quale mando un grande abbraccio. Silvia, abbiamo terminato, andiamo bene a fare il video. Io ti ringrazio tantissimo per la playlist, per la recensione, per l'articolo su Alias. Ora faremo il video che trovate su www.radiocittafugico.it e domani andiamo in mostra puntuali alle ore 7. So che è una giornata bella e intensa anche tu per quest'oggi, quindi ovviamente ti auguro il meglio per il percorso di questo nostro mercoledì 21 febbraio, dandovi appuntamento al mercoledì prossimo con il Voltiamo Pagina. Ciao a tutte, ciao a tutti, ciao Silvia. Ciao a te, ciao, ciao a tutte e a tutti. Ces oiseaux blancs et ces maisons rouillées, la mer les a bercées le long des golfes.